voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. I said five! Look, I don't know what you did, but she just talked to Molly. She's freaked out of you right now, man. Neil, what are you saying? I can't come into your house right now. You cannot come in here. She said so, man. She makes the rules. You know what? I don't need this, Neil. I don't need this. I'm sorry! Neil, get back in here! She controls what I do! Guys' night, Thursday. I'll see you there. Girl è il titolo del brano che ha aperto quest'ultima parte di Eclettica, ultima parte del giorno, ma ovviamente anche della settimana, essendo venerdì. Tutti i giorni, fra le 19 e le 20, sulle frequenze di Rock FM, in compagnia di Giulio Caperdoni. Hey Girl, vi dicevo, è un brano che proviene da Copenaghen, come ovviamente la formazione che l'ha eseguita, loro si chiamano Figurines. Usciranno il 23 di giugno in Danimarca, solo in Danimarca, con la Morningside, un album dal titolo When the Deer Wore Blue, album da cui appunto abbiamo estratto il brano appena ascoltato, ma album che già si sa verrà pubblicato anche in Canada e negli Stati Uniti da due etichette diverse, rispettivamente la Paperbag e la Control Group, nel mese di settembre, esattamente l'11 di settembre. Ora invece direi che è arrivato il momento di riascoltare, dopo parecchio tempo che non succedeva più, Black Eyed Dog. Thank you. dripping down from you, Harlem heart. A gimme mask and I'll tell you how to stick out to the low. A gimme needle and I'll clean it for you. Oh, Holly è venuto da Miami, Florida. Ha attraversato gli Stati Uniti in autostop. Lungo la strada si è depilato le sopracciglia, si è rasato le gambe ed è diventato una lei. E ha detto: «Ehi tesoro, fatti un giro sul lato selvaggio». Candy è arrivato dall'isola. Nella stanza sul retro era carina con tutti. Ma non ha mai perso la testa, neanche quando faceva pompini. E ha detto: «Ehi tesoro, fatti un giro sul lato selvaggio». Il piccolo Joe non l'ha mai dato via per niente. Tutti dovevano pagare e pagare. Una botta qui e una botta là. New York City è il posto dove dicono: «Ehi tesoro, fatti un giro nel lato selvaggio». Ho detto: «Ehi Joe, fatti un giro sul lato selvaggio». Sugar Plum Fairy è venuto qui a battere in cerca di cibo per l'anima e un posto per mangiare. È andata all'Apollo. Avresti dovuto vederlo come ci dava dentro. Dicono: «Ehi dolcezza, fatti un giro sul lato selvaggio». Jackie è completamente fatta di anfetamine. Pensava di essere James Dean per un giorno. Allora ho capito che doveva schiantarsi. Il Valium avrebbe aiutato la botta. Disse: «Ehi tesoro, fatti un giro sul lato selvaggio». Ho detto: «Ehi dolcezza, fatti un giro sul lato selvaggio». E le ragazze di colore dicono: «Du, du du, du du, du du du». Mi sono un po' divertito alla fine nel non canticchiarla. Questo ovviamente era Walk on the Wild Side di Lou Reed. one clap your wine. Done everything you can to undermine me. You've tried to intimidate me. You've tried to humiliate me. You bastardized my project to the point where it's unrecognizable. And here's the thing, Bob. I don't care. I don't care about this job, and I don't care about you. I care about Molly. She means everything in the world to me. And if you're gonna stand in the way of me trying to win her back, you better bring a pretty big candlestick. If I was young, I'd flee this town. I've buried my dreams underground. As did I, we drink to die. We drink to night. Far from home, LA. Not around. Let the sea In attesa del nuovo album, dovremo aspettare dopo l'estate, si mormora di settembre, da parte di Beirut ci siamo ascoltati un estratto dal suo ultimo EP, quello che è uscito nella primavera scorsa. Prima di Beirut, l'accento fortemente scozzese dei The Twilight Sad ed ora ancora Danimarca all'interno di Eclettica, quando mancano più o meno 10 minuti alla chiusura dell'intera settimana qua sulle frequenze di Rock FM. Ancora Danimarca, in quanto è il momento di un duo danese di nome Junior Senior, che sono usciti esattamente come il gruppo già citato in inizio di questa party, Figurines, prima in Danimarca e poi hanno cominciato a pubblicare un po' in tutto il mondo. Buoni ultimi gli Stati Uniti, dove usciranno nel mese di agosto. Ecco, la canzone che sta per arrivare io la vorrei dedicare a chi ascolta Eclettica con le cuffie, tipicamente chi si ascolta il podcasting. Questa canzone è per voi, sentirete infatti più volte ripetere: se il mondo ti sembra grigio, se ti sembra di avere una brutta giornata, indossa le tue cuffie. Se i tuoi amici non vogliono giocare, indossa le tue cuffie, e così via. È un inno alle cuffie, Headphone Song. Caroline dice che sono solo un giocattolo. Lei vuole un uomo, non un ragazzo. Oh, Caroline dice che non può fare a meno di essere meschina o crudele, o almeno così sembra. Oh, Caroline dice, lei dice che non vuole un uomo che le sbavi dietro, ma lei è ancora la mia regina tedesca, sì, è la mia regina. Le cose che fa, le cose che dice, la gente non dovrebbe trattare gli altri in questo modo, ma all'inizio pensavo di poter sopportare tutto, come il veleno in un'ampolla. Ehi, spesso era così volgare, ma naturalmente pensavo di poter sopportare tutto. Caroline dice che non sono un uomo, così andrà a cercarselo dove capita. Oh, Caroline dice sì. Caroline dice che dei momenti della sua vita non possono continuare ad essere solo miei. Oh, Caroline dice sì. Caroline dice mi tratta come fosse un imbecille, ma per me lei è ancora la mia regina tedesca. Oh, lei è la mia regina, sì, regina. Ehi, tesoro, lei è la mia regina. Questa era Caroline Says di Lou Reed. Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 40, volume numero 5. Indice, A Toys Orchestra, Muzak, Art in Manila, Junior Boys, Juan Mordecai, You Say Party, We Say Die, Figurines, Black Eyed Dog, The Twilight Said, Beirut, Junior Senior, Nina Anastasia assieme a Jim White. Giulio Caperdoni vi saluta, vi ringrazia e vi rimanda a lunedì prossimo, sempre alle ore 19, sulle frequenze di Rock FM.